Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, subito per parlare di scenari internazionali e naturalmente di Unione Europea. Dunque Siria, Birmania, i Balcani, questi temi al centro del vertice dei ministri degli esteri europei. Nuovo passo dell'Europa a favore dei ribelli siriani, ma la Russia non gradisce. I ministri degli esteri comunitari hanno approvato la deroga parziale all'embargo sul petrolio di Damasco. Le società europee potranno importare quanto sarà venduto dall'opposizione al regime. La decisione permetterà la ripresa delle attività petrolifere praticamente dimezzatesi a causa del conflitto nelle zone controllate dalle milizie ribelli. A stretto giro la risposta di Mosca, con la Russia che ha definito controproducente la decisione dell'Unione Europea. Intanto da Bruxelles il segretario di Stato americano John Kerry e il presidente della Commissione Giuseppe Barroso sostenevano come a Damasco sia necessario arrivare al più presto a un tavolo per una soluzione pacifica prima che ci siano più morti, più rifugiati e il possibile utilizzo di armi chimiche. Su un altro fronte, in Lussemburgo i ministri degli esteri europei eliminavano definitivamente le sanzioni contro la Birmania in virtù delle riforme introdotte dal regime militare, pur conservando l'embargo sulle armi. Infine, soddisfazione per lo storico accordo tra Serbia e Kosovo, che dischiude ai due paesi una prospettiva europea, seppur su livelli diversi. Per il viceministro Marta Dassù l'accordo è un successo della diplomazia comunitaria e italiana. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora al Parlamento europeo, dove si discute quello che è il vero flagello di questa crisi, la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Più di 2 giovani su 10 in Europa sono disoccupati, ne parla oggi il commissario per l'educazione Andrulla Vassiliou, perché tutto parte da lì, dai tagli alla formazione. It's tough to invest in all sorts of areas with public money at the moment because of the recession, the downturn. È dura investire nella scuola in un momento in cui gli stati devono fare i conti con la crisi, ma se non si investe in questo c'è il rischio di perdere un'intera generazione, lo ha detto il portavoce Dennis Abbott. This generation is not being really represented in the dialogues and it's not one of the stakeholders that would be present in the policy making. Questa generazione non è rappresentata in politica, poco a Bruxelles, poco negli stati membri, ma sarà il futuro dell'Europa, gli ha fatto eco Zuzana Novakova del Centro Future Lab Europe. At the same time this is the generation that is going to write the future of Europe. Il tasso di disoccupati fra gli under 25 sfiora il 60% in Grecia, è al 55% in Spagna, al 38% in Italia. Diversa lo scenario in Germania, dove i disoccupati fra i giovani sono appena l'8%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri la giornata mondiale della Terra, abbiamo parlato di osservazione satellitare, dunque di satellite. Abbiamo ancora qualche curiosità da rivolgere a Simone Tacchelli, direttore del programma Osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. La prima è: quanto spende l'Europa per questo settore? L'Agenzia Spaziale Europea, che è un organismo internazionale con 20 paesi membri, spende circa all'anno un budget di 4 miliardi di euro, di cui la parte più importante, cioè il 22%, è speso in attività collegate al monitoraggio ambientale. Quindi il programma di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea è il più importante sia per rilevanza politica del tema ambientale, sia per l'interesse che i nostri paesi membri hanno e danno a questa tematica. Un budget quindi di circa 8-900 milioni di euro attraverso l'ESA, che è speso in sviluppo e costruzione e operazioni legate a satelliti che monitorano l'ambiente, per il monitoraggio ambientale. È molto importante, spesso non ci si rende conto che i satelliti sono uno strumento fondamentale per non solo la gestione delle risorse naturali, quindi tutto quello che è diciamo a fondamento della nostra vita di tutti i giorni, sia a supporto delle convenzioni mondiali sull'ambiente, il protocollo di Kyoto, il controllo delle foreste, il controllo del inquinamento marino, ma anche per la gestione quotidiana a livello locale di quello che è il tema ambiente. Quindi si possono vedere le erosioni costiere, si possono studiare l'inquinamento atmosferico a livello cittadino. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo la presenza del Parlamento europeo al Festival Internazionale del Giornalismo, che si terrà a Perugia da domani al 28 aprile. L'Ufficio di Informazione in Italia, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea, ha organizzato un dibattito politico dal titolo «Più integrazione o disintegrazione dell'Europa?». Oltre a una conferenza sui social network e la morte del giornalismo, è un laboratorio sul come comunicare l'Europa in Italia tra sfide e opportunità. Per tutta la durata del festival sarà presente anche uno stand informativo, dove trovare opuscoli, videoclip e quiz interattivi. Vi ricordo infine che la puntata dell'Altra Europa di sabato 27 aprile sarà in diretta proprio da Perugia. Per informazioni www.festivaldelgiornalismo.com. Tutto chiaro? Spero di sì. Nel caso ritrovate tutto come sempre su radio24.it. L'appuntamento per noi è a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.